dati tante latitante. Sogno villa con palme, accendo una canna in spiaggia e penso ai contanti. Latitante, latitante, sto con i trafficanti, coste con le barche, Zodiac barca con i pacchi. Latitante, latitante, sogno villa con palme, accendo una canna in spiaggia e penso ai contanti. Latitante, latitante, sto con i trafficanti, coste con le barche, Zodiac barca con i pacchi. Nick la miseria non mi manca, si stava male a casa, mamma piangeva in stanza, non c'era spesa a casa. Volevo una nuova scarpa, due inverni, stessa giacca. Toxico vuole bamba, io tutti i suoi soldi in tasca. Sogno Gamo, sogno Bentley, Rolls Royce con le stelle. Giro da solo col ferro, no letto, dormito a terra. Jack, Jack Daniel sto bevendo, Yamaha 530, senza casco con il vento. Solo da ubriaco ti penso. Allo mamma mamma, come un savalo se mi chiama, ed un po' che non passo a casa. Saluta Nadir, saluta Adam, famiglia mi manca, giuro che mi manca. Allo mamma mamma, come un savalo se mi chiama, ed un po' che non passo a casa. Saluta Nadir, saluta Adam, famiglia mi manca, giuro che mi manca. Completo su un island, vacanza in Thailandia. Peccato non posso uscire dall'Italia. Finisco le canne, mi butto sull'alcol. Fumo solo canne, mai toccato cocco. Clacket crocco, casket crocco. Vendevo coca sotto le popo. In tribunale ho cucito la bocca. Timo banco non parlavo proprio. Latitante, latitante, sogno villa con palme, accendo una canna in spiaggia e penso ai contanti. Latitante, latitante, sto con i trafficanti, coste con le barche, Zodiac barca con i pacchi.